Con Ernesto Assante, uno dei curatori della terza edizione di Re Tape, la rassegna musicale dedicata alla scena romana dall'11 gennaio fino a maggio. Ernesto, ben trovato. Ci racconti di questa realtà? Credo che anche molti degli ascoltatori sappiano che Roma è in una fase, posso usare l'aggettivo che viene usato un po' troppo spesso, ma in questo caso è giusto, straordinaria, musicalmente parlando. Rispetto anche alle altre città d'Italia, c'è una vitalità, una creatività, una scena vivace come non accadeva almeno negli anni 90. C'è tantissima musica e tutta di genere diverso, quindi non è che non è più come dire, tanto che ne sono una città di cantautori, per dirne una. Non c'è un unico posto centrale come la negli anni 90 locale, per dire, in cui si erano molti artisti che poi sono diventati celebri. Insomma, c'è una realtà diffusa, colorata, movimentata, diversa, che va dalla trap all'avanguardia, all'elettronica, dal rap alla canzone, insomma c'è veramente un po' di tutto. Volevamo dare testimonianza di questa vitalità romana, la migliore scena italiana del momento. Abbiamo cominciato 3 anni fa con questo festival, facendo semplicemente 2 giorni di festival, da 2 anni facciamo questa rassegna, significa che ogni 15 giorni, più o meno, in realtà senza una data fissa, un gruppo nuovo, o nuovissimo, o noto, ma insomma, ci muoviamo liberamente tra band molto emergenti e band decisamente più conosciute, suona nello spazio del teatro studio, dell'auditorium, che in fin dei conti si chiama Fondazione Musica per Roma, e quindi era ragionevole che ci fosse uno spazio per la musica romana. Quanti sono gli appuntamenti di questa terza edizione? Sono 9 per essere precisi, ve li ricordo, si comincia domani appunto con il cazzo che aprono la rassegna, sono forse la band più celebre. Poi il 24 gennaio c'è Emilio Stella, il 10 febbraio Le Sigarette, il 20 febbraio Bartolini, il 4 marzo Barberini, il 20 marzo Filovalse, il 17 aprile gli ottimi People's Dancer, il 10 maggio Decca e il 22 a chiudere gli Eva Collister. Quindi come vedete c'è veramente un po' di tutto. Poi ci sono 4 appuntamenti fuori dall'auditorium, perché appunto la rassegna interna dell'auditorium si chiama Tape Club, quella esterna si chiama Tape Off, nel senso che vogliamo dare, ci piaceva l'idea di dare un po' di promozione, di visibilità anche ai club romani, soprattutto quelli che fanno una programmazione più interessante, più intelligente, più intelligente, no, aggettivo sbagliato, più interessante e più ricca. Quindi cominciamo il 29 gennaio a Una Cosetta con Cecilia, poi abbiamo il 21 febbraio i Sonics alla Route 66, poi il 29 marzo a Riverside i Santi Bevitori e quindi a chiudere, anzi no, chiudiamo il 29 marzo i Santi Bevitori, mentre il 9 marzo abbiamo il Wishlist, il Grifo. Quindi alla fine sono 13 appuntamenti più quello che ci sarà d'estate, appunto il festival, come è stato nei 2 anni precedenti alla Cave o comunque all'Auditorium. Quindi una doppia edizione annuale, una estiva e una invernale. Sostanzialmente sì, quindi un festival ma 3 rassegne differenti, una all'auditorium, una appunto nei club e un festival conclusivo estivo. Biglietti sono accessibili come prezzi? Sì, assolutamente sì, ti devo dire che la cifra esatta adesso se te lo dico è sbagliata, ma largamente al di sotto dei 10 euro. Perfetto. Ci sono dei riferimenti web per seguire la programmazione? Sul sito dell'auditorium c'è l'intera programmazione, ovviamente poi c'è il talk del sottoscritto su Repubblica che seguirà, ovviamente già lo fa, ma insomma seguirà, segue la scena romana con particolare attenzione. Benissimo, allora ricordiamo la terza edizione della rassegna musicale dedicata alla scena romana Re Tape. E un saluto e un ringraziamento ad Ernesto Assante, uno dei curatori, in scena dall'11 gennaio a maggio. Ernesto, un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille anche a te, ciao, grazie.